Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. To pry into a man's personal affairs, but exactly how is it that you came to be way out here without a horse or boots or a hat? Well, my car horse broke down and a bear ate my boots, and I guess I just forgot my hat. Home. up fast. Forgive a little low, I won't let it last. With every little day that passes, something is fixing, there's something that's broken. This conversation is no longer talking. I called your name out, sunny and blue. I picture sitting, just me and you. Sono gli ultimi 30 minuti di Eclettica della settimana, ultimi 30 minuti che sono iniziati con i Guster e Satellite. Se non ricordo male, la settimana scorsa avevano saltato il giro, questa settimana sono tornati. Invece sono sicuro che settimana scorsa non ci eravamo ascoltati Emma Pollock, l'ex Delgados, ora che la formazione si è sciolta, ha iniziato una carriera solista ed è uscita con un album dal titolo Watch the Fireworks, del quale vi siete appena ascoltati Acid Test. Per proseguire con un artista inglese che si chiama Keith John Adams, però si presenta con il nome di The Keith John Adams, con l'articolo determinativo davanti, però è sempre lui, ha una backing band per quando suona dal vivo, ma quando fa le cose in studio tipicamente è da solo. È appena uscito con un album dal titolo Unclever, che è stato registrato ad Athens in Georgia, album dal quale vi faccio ascoltare Nothing. Vi piacciono quei pochi istanti che precedono le 7 di sera, quando con gli strofinacci della polvere e le pagine accartocciate del Narodni Politica, la politica nazionale, pulisco i cilindri di vetro delle lampade, con un fiammifero stacco il nero degli stoppini sbruciacchiati e rimetto a posto i cappellini d'ottone. E alle 7 in punto giunge quell'attimo stupendo in cui i macchinari della fabbrica di birra smettono di lavorare e la dinamo che manda la corrente elettrica dovunque si accende una lampadina, la dinamo comincerà a diminuire i giri e con l'indebolirsi della corrente si indebolirà anche la luce delle lampadine. Da bianca che era si fa rossa e da rosa grigia, filtrata attraverso la garza e l'organzino, fino a che i fili di tungsteno non mostreranno accanto al soffitto rossi ditini rachitici, una rossa chiave di violino. Questo era l'incipit della tonsura di Bohumil Hrabal. So long. I'll tell you what I'll do, Mr. Haskell. I'll help you find your blacksmith friend. You can stay the night in the barn. And tomorrow, I'll take you as far as the railroad tracks. You can follow him straight on into town. I'll even give you a hat. Meno di 10 minuti alla chiusura della trasmissione dell'intera settimana. Mi sembra il momento buono, soprattutto rivolgendomi a chi magari giocando con la sintonia si è ritrovato da queste parti, per ricordare che questa è Eclettica, in onda tutti i giorni della settimana fra le 19 e le 20. La voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni, raggiungibile via mail a giulio@radiorockfm.com, indirizzo da utilizzare non solo per scrivere ma anche per iscrivervi alla lista nera di Eclettica nel caso vogliate ricevere l'elenco delle canzoni, dei film e delle letture che la costituiscono. Esiste anche il podcasting di questa trasmissione, tutti i dettagli su myspace.com oppure su www.radiorockfm.com. e per quanto riguarda la musica che ci siamo appena ascoltati, nell'ordine prima Caribou con Melody Day nella versione Fortet Remix e poi Sam Amidon con Saro, e si passa a un quintetto di Pittsburgh, loro si chiamano Ball of Flame Shoot Fire, incidono per la Big Big Truck Records, sono appena usciti con un album dal titolo Grumpy Little Bird, da cui estraggo Red Meat. With an old passport. Sono nuovamente in fonderia. Di lontano, Jarmilka sta trascinando le marmitte con la minestra. Mi affretto verso di lei e la fisso a lungo, fino a farle abbassare gli occhi. È incinta di 6 mesi. Quando apre la bocca posso vedere che le manca una buona metà della dentatura, ma è una ragazza semplice e, proprio per questo, una vera bellezza. Mi incammino accanto a lei e le chiedo a bassa voce: «Allora, Jarmilka, quando ci sposiamo?» E lei risponde: «Quando fiorirà la buina?» Questo era l'incipit di «Vuol vedere Praga d'oro?» di Bohumil Hrabal. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 6, volume numero 5. Emily Haynes and the Soft Skeleton. Altro. Electric President. The Manhattan Love Suicides. Hot Springs. Bit Bit Whisper. Guster. Emma Pollock. The Keith John Adams. Caribou. Sam Amidon. Ball of Flame Shoot Fire. I make this sound. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.